English Bit di Giulia Crivelli. Rain, ma non rain, pioggia. Costa e Zucchelli out at Calvin Klein. Ralph Simmons to take reins. Costa e Zucchelli fuori da Calvin Klein. A prendere le redini sarà Ralph Simmons? Questo si chiedeva qualche giorno fa a Business of Fashion, uno dei più seguiti e autorevoli magazine online dedicati all'industria della moda. Il brasiliano Francisco Costa e l'italiano Italo Zucchelli, per chi non seguisse da vicino le vicende degli stilisti e i loro cambi di casacca, ormai frequenti come quelli degli allenatori di calcio in Italia, erano rispettivamente il direttore creativo della donna e dell'uomo del marchio americano Calvin Klein, mentre Ralph Simmons è stato fino all'ottobre del 2015 il direttore creativo di Dior, ma da qualche mese è disoccupato. L'espressione che ci interessa è to take reins, prendere le redini, per una volta molto simile a quella che usiamo in italiano. Oltre al significato letterale, riferito alle redini dei cavalli, in inglese si usa anche per indicare quelle pettorine guinzaglio applicate ai bambini che ancora non camminano per evitare che sfuggano al controllo degli adulti. Per uso invece figurato si può dire it was time to hang over the reins of power. Era arrivato il tempo di cedere le redini del potere. Qui notiamo anche il phrasal verb to hand over, che significa appunto passare a qualcun altro il controllo di qualcosa. Se il presidente degli Stati Uniti fosse impossibilitato a governare, diremmo the vice president was forced to take up the reins of power. Il vicepresidente fu costretto a prendere le redini del potere, dove to take up era forzativo, grazie alla preposizione up del semplice to take. Un altro uso figurato è legato all'idea di libertà. The designer was given free rein. Al designer fu data completa libertà di movimento. E qui torniamo agli stilisti licenziati da Calvin Klein e al loro possibile sostituto. Sempre secondo Business of Fashion, la cacciata di Costa e Zucchelli paves the way for Ralph Simmons. To pave the way significa spianare la strada. E la scelta era stata widely rumored for several months. Si erano sentite voci da alcuni mesi. Rumor è un false friend, non significa rumore, ma voce. È però una parola utilizzata in economia e finanza, non per parlare di amorazzi o celebrities. In quel caso la traduzione di pettegolezzo è gossip, come ormai in Italia ben sappiamo.